Europa 24. Buongiorno, noi oggi partiamo da un acronimo che è TTIP, scusate, in italiano, Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti. Un acronimo che ancora non conosciamo molto bene, ma che in realtà dovremmo conoscere meglio, perché rischia di determinare, attraverso la creazione di un mercato unico, transatlantico, appunto Europa-Stati Uniti, un mercato da 800 milioni di persone. Le trattative in corso, che sono in uno stato molto avanzato proprio in questi giorni in Italia, vedono tra l'altro un fortissimo sostegno da parte del nostro governo. Allora cominciamo, ne abbiamo parlato con il commissario europeo responsabile al commercio Karel De Gucht. Cominciamo a sentire una prima risposta alla domanda, appunto, perché questo trattato è così importante. It is an important negotiation because European Union and the United States of America. De Gucht spiega che è un negoziato di enorme importanza perché l'Unione Europea e gli Stati Uniti sono già le due maggiori economie del mondo, insieme rappresentano quasi il 50% del PIL mondiale. Già adesso questa sorta di superstrada, come la chiama in italiano De Gucht, superstrada commerciale che lega UE e Stati Uniti, vale 2 miliardi di euro di scambi ogni giorno. Ed è proprio per migliorare questa strada commerciale, per facilitare il percorso, per creare nuove opportunità lungo il percorso, dice De Gucht, senza perdere di vista il livello di protezione di cui gode il consumatore europeo, che discutiamo di questo trattato. Ovviamente, conclude, per facilitare, perché facilitare significa accelerare l'economia, dunque creare nuovi posti di lavoro. Un dibattito che seguiremo, probabilmente porterà già alla fine dell'anno ad alcune decisioni importanti, ma che sentiamo nel pezzo di Valeria De Rosa quali sono i contenuti in discussione. Sfumata la possibilità di chiudere entro il semestre di presidenza italiano. Del resto il momento politico era fin troppo difficile, con le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e l'insediamento della nuova Commissione europea. Renzi ne è consapevole, ma spera di poter dare quell'accelerata decisiva per mettere al sicuro le firme. L'accordo è quello relativo al commercio e investimenti tra le due sponde dell'Atlantico. Un partenariato che porterebbe oltre 73 miliardi l'anno nelle casse europee e 85,5 miliardi nei conti a stelle e strisce. Ben vista dalle imprese italiane, che secondo un calcolo ottimistico potrebbero registrare una crescita delle esportazioni pari a 2 miliardi, l'intesa raccoglie parecchie voci avverse, parte dell'opinione pubblica, sindacati, associazioni dei consumatori e ambientalisti. I capitoli sui quali le posizioni sono distanti non sono pochi, a cominciare dalla clausola sulla risoluzione delle controversie tra investitori stranieri e lo Stato che li ospita, un meccanismo indispensabile per Washington, ma che, secondo alcuni Stati europei, potrebbe portare a scavalcare la giustizia nazionale. Poi c'è l'agricoltura, un punto sensibile per il vecchio continente. Consumatori e associazioni temono l'arrivo di molti prodotti OGM. Su questo i 28 dovranno trovare un punto di equilibrio, così come sulla farmaceutica. Gli americani invece dovranno lavorare all'apertura dei mercati degli appalti pubblici. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Più difese normative contro la corruzione significa anche più investimenti stranieri. L'organismo europeo antifrode e corruzione torna a sollecitare l'introduzione del reato di autoriciclaggio in Italia. Al Parlamento si è arrivati forse a un accordo su un emendamento al DDL sul rientro dei capitali all'estero. Intanto necessaria un'omologazione normativa tra i vari paesi europei, commenta Radio 24 Giovanni Kessler, magistrato, membro dell'OLAF, intervistato da Raffaella Calandra. Creare una armonizzazione della protezione a livello penale dei fondi europei. Se alcuni paesi mancano di alcune tutele, dunque vi sono dei buchi legislativi che rendono più facile il riciclaggio o rendono più facile nascondere proventi illeciti, se questo si verifica anche solo in uno dei 28 paesi, questi buchi si ripercuotono negativamente su tutti i 28 paesi. I criminali sanno benissimo dove sono i punti deboli in Europa e ne approfittano in maniera scientifica. Che l'Italia si adegui a un livello di protezione anche di tipo penale per quanto riguarda il sanzionamento dell'autoriciclaggio, per una maggiore tutela quella penale, anche della trasparenza dei bilanci societari, e aggiungerei anche, come abbiamo fatto presente nel rapporto sulla corruzione europea della Commissione, anche sull'aspetto di una disciplina più adeguata della prescrizione dei reati, ecco che l'Italia si adegui su questi tre aspetti e lo vediamo in maniera assolutamente positiva. E con questo tutto, Europa 24 torna domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.